voce. Federica Fracassi legge Sillabari di Goffredo Parise. Decima puntata. Italia. Un giorno di settembre, sotto un'aria che sapeva di mucche e di vino, due italiani di nome Maria e Giovanni si sposarono in una chiesa romanica già piena di aria fredda, con pezzi di affreschi alti sui muri di mattoni. Raffiguravano il poeta Dante Alighieri, piccolissimo, inginocchiato davanti a un papa enorme e molto scrostato, seduto sul trono. C'era anche un cagnolino nero. La chiesa appariva in quegli anni lontani, solitaria nel mezzo di una pianura di grano turco, e aveva accanto uno stagno con anatre e oche grandi e piccole. Entrambi erano giovani. Maria aveva 18 anni, Giovanni 25. Si conoscevano fin da ragazzi, anche le famiglie si conoscevano e avevano una discreta fiducia fra loro. Il padre di Giovanni disse al figlio, subito dopo le nozze: «Non fidarti di nessuno. Tutti dicono che l'onore non conta niente e invece conta più della vita. Senza onore nessuno ti rispetta». Strano discorso il giorno delle nozze, ma Giovanni capì benissimo, anche senza capirlo, il discorso del padre, che tutti credevano un bonaccione. Giovanni e Maria erano visibilmente italiani, bruni, con bei denti bianchi. Maria aveva seni molto belli e capelli castano scuri, che da ragazza teneva pettinati in due lunghe grosse trecce. Poi li tagliò corti. Giovanni era di statura piccolo e tutto muscoli e nervi. Maria, pur non essendo affatto grassa, era un poco rotonda, nel volto, nei seni, nel sedere, ma aveva la vita stretta e il punto esatto della vita formava come una piega di carne da cui partivano le anche, il ventre convesso ed elastico e il sedere alto sulla curva della schiena. La sua carne era solida e i peli, le sopracciglia, le ciglia erano nerissimi, ricciuti, duri e lucenti. Aveva però mani piccole e magre. Non ricordavano più quando avevano cominciato a fare peccato, ma certo erano giovanissimi. Maria avrà avuto 13 anni. Si baciavano molto nelle sere di primavera, accanto a piccole sorgenti, in una cava di tufo, nascoste tra ciuffi di capelvenere che sgocciolavano e sapevano odore di umidità e di terra. Certe volte di giorno, durante l'estate, andavano a fare il bagno in un torrente molto vasto, con ciotoli arroventati e pozze gelide, tra sole e cespugli coperti di polvere bianca. Deve essere stato tra quei cespugli e forse vicino alla sorgente, ma tutto è molto confuso dato il tempo passato. Maria pianse un paio di volte, non si sa bene il perché, dal momento che lo stringeva molto, abbracciata con le braccia e anche con le gambe, tra le stelle e lo sgocciolio del capelvenere. Cominciarono ad amare molto i loro odori e sapori. Spesso d'estate Maria aveva la pelle che sapeva di sale e Giovanni, dopo il bagno nel torrente, aveva i capelli profumati di cioccolato. Molti erano gli odori e i sapori che piacevano uno all'altro, come l'odore delle barene nella laguna di Venezia, il sapore del cocomero, più di tutto il sapore del pane e quello delle patate fritte. Erano troppo giovani, non avevano ancora imparato ad amare l'odore delle erbe, la mentuccia, il rosmarino, la salvia, l'aglio. Avrebbero cominciato ad amarli più tardi. Anche l'olio di oliva lo amarono più tardi, in età matura. In quell'età cominciarono a mangiare più spesso pesce e a provare piacere nelle acque profonde dei mari del sud dell'Italia. Avevano molto il senso dell'onore di cui aveva parlato il padre di Giovanni il giorno del matrimonio. L'onore significava la fedeltà uno all'altro, il non dire mai nulla di sé che non fosse stato uno dei due e non ad altri. Per antica abitudine sapevano che l'onore non avrebbe permesso a nessuno di non rispettarli. Ad entrambi per questo piaceva molto dormire insieme la notte nello stesso letto. Affondavano in un sonno profondo, protetti dalla forza dell'onore, fra i loro odori e sapori, perché in quegli anni e per educazione non si lavavano enormemente come oggi, ma moderatamente, il necessario. Oggi si direbbe di loro che erano sporchi. Passarono gli anni. Erano sempre anni di gioventù e dunque era come se non passassero perché nulla cambiava in loro, essendo profondamente radicati alla loro regione, anche se avevano cominciato a viaggiare. Le altre regioni d'Italia erano un po' come stati esteri, ma piano piano capirono che i cittadini di quegli stati esteri erano anch'essi italiani e che tutti, ognuno in modo diverso, erano come avvolti in un loro onore regionale. Spesso avevano momenti di silenzio entrambi, non sapevano cosa dirsi, e Giovanni, come un ragazzino con un amico, prendeva la mano di Maria e con l'altra mano le batteva colpetti sul dorso. Questa era la confidenza, così vicina e simile all'onore. Capirono com'era vero che la sola persona di cui potevano fidarsi era l'uno e l'altra. Non che avessero un'idea precisa dell'istituto della famiglia o del matrimonio, così come si intende. Avevano semplicemente la pratica della vita insieme e la sempre più grande coscienza che degli altri italiani come loro ci si poteva fidare sì abbastanza, ma non molto, meglio poco. Cosa significava fidarsi? Non lo sapevano bene perché erano ancora giovani. E qualche volta erano tentati di fidarsi, ma era una cosa vaga, l'opposto di un'altra cosa vaga che era il tradimento, per cui il rapporto con le altre persone, anche con i loro amici d'infanzia, era molto sincero, ma nessuno dei due diceva tutto. Bisognava tacere per vivere. Ebbero un bambino, che chiamarono Francesco. Erano dotati per vivere. Avevano quel genio italiano, ma non di tutti gli italiani, di muoversi, di camminare, di sorridere, che è come bagnato dal mare Mediterraneo. Il sole dell'Adriatico fa molto, ma non è come il mare Mediterraneo nei corpi e nelle movenze delle persone veramente italiane. Questo dava loro un forte senso di familiarità, anche come fratello e sorella, e di sempre maggiore complicità. La complicità era dovuta a una grande naturalezza, forse nata da matrimoni fra bisnonni e avi, ed è legata ai movimenti comuni che si fanno in gioventù nella stessa terra, quando si mangia e si dorme vicini in casa, e ad un'aria di famiglia che in quegli anni moltissimi italiani avevano. Giovanni conservava nel corpo, come del resto Maria, i muscoli, i nervi, i sogni e la fame di un ragazzo. Francesco era come lui. Certe volte gli amici prendevano in giro Giovanni perché durante il lavoro si stringeva nel suo camice. Seduto accanto ad uno al microscopio, gli appoggiava il capo su una spalla e dormiva. Aveva una testa piccola con molti capelli arruffati e così, dormendo, teneva le mani intrecciate in grembo. Era molto distratto, nuotava e sciava bene, ma di colpo si stancava certe volte quando era distratto e mangiava alla mensa in distrazione, masticava come uno che non sente nessun sapore e teneva gli occhi fissi al pensiero, non dentro di sé, guardando e parlando col pensiero, ma come se il pensiero fosse una persona, seduto o lontano da lui, sola. Non litigavano mai. Maria non ebbe mai un altro uomo e Giovanni non ebbe mai un'altra donna. Non ebbero mai questioni di gelosia, in quanto si amavano in modo sempre diverso col passare del tempo e sempre pensando ognuno all'onore dell'altro. Giovanni ogni tanto si arrabbiava. Allora diventava pallido, perdeva la voce e si picchiava la testa per non dare i pugni in testa a Maria. Si arrabbiava perché Maria era permalosa di carattere, si incupiva, piangeva disperatamente con il moccio come i bambini. Ebbero una bambina, che chiamarono Silvia, come la nonna di Giovanni. Era nata con un leggero difetto all'anca, per cui, diventando grande, zoppicava un po', pochissimo. I genitori se ne crucciarono molto, ma quando Silvia ebbe 13 anni e cominciò a mostrare tutta la sua bellezza tra russa e tartara, non ebbero più crucci. Quel lieve zoppicare quasi non si vedeva e dava a Silvia quello che moltissime altre donne non avevano. Ormai non erano più giovani, ma la loro pelle, la carne, la saliva, i capelli erano ancora abbastanza giovani. Giovanni era invecchiato nel volto, aveva dei capelli grigi, le borse sotto gli occhi e due pieghe dure ai lati del piccolo naso infantile. Maria non era ingrassata, ma aveva anche lei qualche capello grigio e i seni e la carne non erano più veramente quelli. Non c'era più la durezza. Giovanni, che li toccava sempre fin da ragazzo, per scherzo e sul serio, smise di farlo per discrezione. Maria capì questa discrezione, ma il capirlo fu una cosa oscura e ogni tanto, guardandosi allo specchio e nel bagno nuda, diceva tra sé a voce alta: «Sono vecchia». E si copriva anche a se stessa perché la gioventù se n'era andata. Ogni estate andavano al mare e qualche volta facevano dei viaggi in Italia. Nella loro mente Capua veniva immediatamente prima di Porta Capuana, perché videro entrambi i luoghi uno dopo l'altro. Ricordavano Cuma e le Zolfare. Quei viaggi in Italia rimasero ben netti nella loro mente, anche se ogni anno che passava i loro sensi avevano sempre minor forza. Gli odori dell'aria, il sapore dei cibi e le profondità dei mari erano ogni anno meno sorprendenti, anche se più dolci alla vista e ancora più dolci al pensiero e al ricordo. Essi non lo sapevano, ma una leggerissima stanchezza nei sensi, cioè nella vita, si era infiltrata nei loro corpi e nei loro pensieri. Passarono altri anni, rapidamente quanto lentamente passava un giorno della loro gioventù lontana. Silvia era molto amata, una delle donne più amate d'Italia, e Francesco diventò dirigente sindacale di un partito politico da giovanissimo. Era un idealista. Un giorno Giovanni, a un collega francese che si preoccupava delle sorti dell'Italia, disse: «Tu sei tien en Italie». «Sì, ma per quanto tempo?» «Per sempre». Così dicendo, Giovanni, era sera in un ristorante di Piazza Santa Maria in Trastevere a Roma, tra luci, lampi e scintillì di oro, vide come illuminarsi davanti a sé l'intero territorio italiano e gli parve che chiese, torri, cupole, ruderi e forre, campagne e oliveti ventosi cucinassero al sole, circondati dal mare. L'omertà era un concetto difficile da spiegare a uno straniero e Giovanni lasciò perdere. Giovanni e Maria invecchiarono di colpo, ma come sempre, per quella misericordiosa stanchezza che avevano entrambi ereditato dalle illusioni infinite della Chiesa Cattolica, senza saperlo, nessuno dei due se ne accorse veramente. Nessuno dei due si accorse di avere già vissuto tutta la vita da qualche tempo ormai, e non parve a loro di vedere i cieli di Roma al mattino, il pomeriggio al Lido di Venezia quando i bagnini cominciano ad avvolgere le tende per la notte, o le palme di agosto a Piazza di Spagna per le ultime volte. Maria andava a San Pietro. Non era mai stata in chiesa se non da ragazza, ma ora le piaceva andare a San Pietro senza pregare, ma per guardare gli altari, l'arco della piazza, sentire l'odore dell'incenso e vedere il Papa dire messa. Il figlio la prendeva in giro e Maria rideva con gli occhi, con gli stessi denti bianchi da negretta di quando era ragazza. Maria si accorse un giorno di giugno che parlando perdeva le frasi, che rimanevano nel pensiero e si esprimeva in modo confuso e spesso incomprensibile. Quando la udì dire quelle frasi senza senso, Giovanni si fece molto serio e lo prese un dolore infinito perché capì che sarebbe morta. Infatti Maria morì e di lei non rimase nulla in casa. Giovanni visse ancora 11 anni. Camminava molto e lavorò sempre, ma la cosa si era rotta e la vita continuò a passare anche dopo che morì Giovanni e nessuno vedeva più i due sposi da tanto tempo. Rimanevano però Silvia e Francesco, che a loro volta avevano figli grandi. La figlia di Francesco si chiamava Maria come la nonna e come lei aveva piccole labbra color corallo e denti molto bianchi. Lavoro. Alle 2 di un pomeriggio di agosto del 1970, un uomo con un cappotto polveroso e un cappello camminava spingendo una bicicletta su una strada asfaltata in mezzo alla campagna piatta e verde di vigneti. Appesi al manubrio della bicicletta c'erano dei barattoli e in bilico tra il manubrio e la sella qualcosa di bianco, leggero ma ingombrante, che a distanza sembrava uno scheletro. Fu questa impressione ad attrarre gli sguardi di un uomo in automobile che passava di lì. La strada era deserta da ore. e vide lo scheletro fin da lontano nei tremolii dell'aria calda. Frenò e si fermò accanto all'uomo. Le cicale cantavano ininterrottamente e si udivano anche certe urla acutissime di maiali molto lontane. L'uomo con la bicicletta non si fermò né guardò l'altro, ma continuò a piccoli passi e ad ogni passo il cappottone pareva emanare sbuffi e tonfi. L'uomo della macchina guardò meglio lo scheletro e solo in quel momento si accorse che si trattava invece di un mobile, un'angoliera, costruita e intrecciata con rami sottili e flessibili di salice e di midollo di giunco. Era una costruzione molto complicata. Liberty, come si dice oggi, con foglie di palma e fiorellini ricavati dal salice spellato, il tutto a forma di cornucopia. La cornucopia sorreggeva un'assicella bianca che doveva servire d'appoggio, chissà, per vasi di fiori o piante. I rami di salice con cui era costruito l'oggetto erano bianchissimi, come quando un ramo è appena sbucciato e forse a causa dell'ora e della luce del sole erano ancora più bianchi. L'angoliera era qua e là colorata, con tocchi d'oro e d'argento, ma tocchi rapidi e distratti e pennellatine di colore all'anilina blu, giallo e rosso. I barattoli appesi al manubrio della bicicletta erano per metà pieni di quei colori e si capiva che l'oggetto era stato costruito poche ore prima con grande abilità e rapidità. Forse all'alba. L'automobilista fu incuriosito da quel lavoro e si avvicinò all'uomo in paltò, lo salutò e gli chiese se l'oggetto era in vendita. L'altro rispose di sì, con una voce da avvinazzato. «Quanto costa?» chiese l'automobilista. Il vecchio, si trattava di un vecchio, ma forse non era così vecchio, tale sembrava per la barba lunga di vari giorni, il cappotto, il cappello e una certa aria vecchia emanata anche dall'angoliera, lo guardò a lungo con occhi neri, forti e aggressivi e solo dopo un po' rispose «Dipende». La risposta lasciò interdetto l'automobilista. Quegli occhi non erano vecchi e si sentì debole senza sapere in quale senso. Forse la strada deserta, le cicale, le urla dei maiali e l'aggressività del vecchio. Quello avrebbe potuto tirar fuori un coltello, si trovò a pensare l'automobilista con immensa sorpresa. Ma si fece forza e disse «Dipende da che». Il vecchio ebbe un lampo quasi divertito negli occhi aggressivi e rispose «Dalla simpatia». «E cioè, cosa vuol dire?» «Può essere 500, 1000, 2000, dipende». L'automobilista si sentì di colpo offeso. Non sapeva né come né perché. Si asciugò il sudore con il fazzoletto ben piegato. Ma si sentì anche forte per l'idea di essere stato offeso e disse in modo sbrigativo «A me, per esempio, che prezzo fa?» «1000», disse il vecchio senza esitazione. «Allora vuol dire che un po' di simpatia ce l'ha anche per me», pensò l'automobilista e come sollevato aggiunse «Va bene, ma perché 1000 e non 2000?» E in quell'istante ebbe la sgradevole sensazione di una stonatura che tutta l'impostazione commerciale dell'acquisto era sbagliata. Capì, anzi, che non c'era nessuna impostazione commerciale. Il vecchio lo guardò questa volta con uno sguardo semplice, come modesto e al tempo stesso sicuro di sé. Poi abbassò lo sguardo sull'angoliera e rispose «Così». Ci fu una pausa, durante la quale il vecchio tentò di appoggiarsi al telaio della bicicletta, ma lo fece traballando. Si guardò addosso e cominciò a spazzolarsi il cappotto con una mano. «L'ha fatto lei?» domandò l'automobilista per stabilire una certa cordialità commerciale. Il vecchio accennò di sì. L'automobilista chiese alcuni particolari che però andavano per le lunghe e parevano annoiare il vecchio. Finito di spazzolarsi, riprese nelle mani il manubrio, disse «Buongiorno» e già stava per andarsene. L'automobilista lo fermò con una mano. «Cosa fa? Se ne va, non ha detto che me lo vende?» «Va bene», disse il vecchio, fermò la bicicletta, allungò minuziosamente una specie di treppiede così da farla stare in piedi, poi cominciò a sciogliere certi piccoli legacci che fissavano l'angoliera. Anche quelli li mise nella tasca del cappotto minuziosamente. L'automobilista cavò di tasca il portafoglio, sfilò 1000 lire e le tenne in mano fino a quando il vecchio non ebbe posato a terra l'angoliera, quasi in mezzo alla strada. Proprio in quel momento un piccolo branco di anatre bianche salì da un fossato, girò intorno agli uomini e all'angoliera e starnazzando attraversò la strada. «Con che cosa li fa questi lavori?» continuò l'automobilista. Il vecchio aveva già intascato le 1000 lire e spiegò «Con i rami di salice, qualche volta di giunco, quando lo trovo e quando non mi bastonano», aggiunse ridendo. «Chi lo bastona?» «I contadini, i padroni dei salici, dei rami, del giunco. Questi servono per legare le viti d'inverno, certi si arrabbiano o non danno il permesso di tagliarli. Una volta mi hanno mandato all'ospedale, altri invece mi danno da dormire nei fienili, da mangiare e anche vino in cambio del mio lavoro. Sono lavori per nozze, aggiunse. Ma fa soltanto questo lavoro? Faccio anche seggioline per bambini, portavasi, qualche volta tavoli piccoli, qualche volta sedie, dipende dal materiale che ho. Lavoro con quello che ho. L'automobilista sembrò accorgersi solo in quel momento che il vecchio era super vestito. Non aveva soltanto il cappotto, ma anche due giacche, un maglione e un fagotto di indumenti legato dietro la bicicletta. Notò anche che le scarpe del vecchio erano a forma di palla, come un involto di cuoio. Tuttavia non sudava, pareva non avere caldo. «Non ha caldo?» domandò l'automobilista. «Sono abituato», disse il vecchio. «Di notte fa più freddo e di solito dormo in giro nei campi. Quando c'è la luna lavoro con la luna perché fa più fresco». «Ma ha sempre fatto questo lavoro?» continuò l'automobilista. «Così e così». «Come così e così? Ho lavorato in un'officina meccanica quando ero più giovane, ma quello non era un lavoro. Come si dice, un lavoro lavoro. E c'era anche un padrone. L'ho fatto perché mi ero sposato. Ma poi ho ripreso il mio di lavoro». «È anche sposato?» domandò l'automobilista. «E ha figli?» Il vecchio aiutò l'automobilista a far entrare l'angoliera nella macchina. «Sì, tre», rispose. «E non li vede mai?» Il vecchio fece un gesto ridacchiando, come dire che i figli non volevano vederlo o lui non voleva vedere i figli. «E abita da queste parti?» domandò ancora l'automobilista. «No, non sono di queste parti, ma vengo qui d'estate qualche volta, perché qui c'è molto salice e anche midollino». Si dilungò in una descrizione di luoghi e di famiglie che frequentava e per le quali faceva dei lavori, ma l'automobilista, che pure era di quella zona, non riconobbe né i luoghi né le famiglie. Se lo fece spiegare meglio. «Alla chiesa di San Nicolò, sa dov'è?» «Sì», disse l'automobilista. «Beh, davanti alla chiesa di San Nicolò c'è una stradina che entra in campagna. In fondo, non alla prima, alla seconda casa vado io. Lì può domandare di me». E così dicendo sollevò il treppiede della bicicletta e si mise in marcia. Anche l'automobilista salì in macchina e se ne andò, ma come un poco addormentato data l'ora. Percorse tutta la lunga strada d'asfalto, 6 chilometri, fino all'incrocio. Poi tornò indietro per vedere dove era andato il vecchio. Ripercorse tutta la strada, 2 o 3 volte spense il motore e al canto delle cicale guardò dentro i vigneti, ma non lo vide. Tornando una terza volta vide la bicicletta appoggiata contro il muro di una piccola osteria tra i vigneti. Andò direttamente a casa. Era vuota perché la moglie e le 2 figlie piccole erano in villeggiatura al mare lì vicino. Trasportò all'interno l'angoliera e trovò un posto accanto al letto matrimoniale, che però era molto moderno come tutto il resto della casa. Una volta di Pasqua, il prete, che venne a benedire la casa, guardò l'angoliera e disse: «Bisogna essere degli artisti per fare un lavoro così». Passarono 2 anni e spesso, infilando quella strada di asfalto, l'automobilista si chiedeva dove era andato a finire il vecchio. Una volta si fermò nei pressi della chiesa di San Nicolò e chiese, ma ebbe notizie molto vaghe. Una sera d'autunno, passando proprio di lì, lo rivide. Anzi, per meglio dire, vide la scena seguente. Un trattore che trascinava un rimorchio carico di uva nera era fermo poco lontano dalla chiesa. Dal trattore saltò giù un contadino che cominciò a gridare contro qualcuno tra le viti. Era il vecchio, con la bicicletta, i pentolini di colore e il cappotto, che pedalava velocemente. L'automobilista non capì bene cosa succedeva, ma vide il vecchio cadere dalla bicicletta e poi riprendere la fuga inseguito dall'altro, che però a un certo punto si fermò sempre gridando. Anche un piccolo cane che stava con il contadino del trattore si fermò e smise di abbaiare. Poi il contadino risalì sul trattore e sparì. L'automobilista fermò la sua macchina accanto alle viti e si inoltrò a piedi alla ricerca del vecchio in direzione del fiume. Cosa poteva aver fatto? Rubato altri giunchi? Ma per così poco fuggiva? Era già buio, ma c'era la luna, e tuttavia non gli riuscì di scovarlo. Trovò soltanto, appena sbucciati, un fascio di rametti di salice che il vecchio doveva aver perduto nella sua fuga. Più avanti incontrò alcune pecore. Negli anni successivi, di tanto in tanto lo cercava, perché la curiosità gli era rimasta. Domandò informazioni e quasi tutti si sbagliavano. Forse c'erano altri che facevano il suo stesso lavoro, che però non era ricercato né aveva molta fortuna. Un giorno al mercato di un paese non lontano vide esposti al limite del mercato, accanto a un'osteria, due o tre di quelle stesse angoliere scheletro come la sua. La sua era stata distrutta dalla moglie, diceva che assomigliava a una corona da morto. Due piccole sedie e un tavolino. I lavori erano allineati contro un muro scrostato e nella loro bianchezza scheletrica e fantastica, con quei baffi di colore acceso, gli parvero bellissimi. Affannosamente cercò il vecchio all'osteria, ma non lo trovò. Allora chiese ai padroni delle altre bancarelle e dissero che il vecchio non lo vedevano da molto tempo, ma che c'era una zingara che vendeva i suoi lavori. Non gli riuscì di trovare nemmeno la zingara e al tramonto aveva perduto quasi tutta la giornata. Quando ripassò per andare a casa, i lavori erano ancora allineati contro il muro. Ne mancava uno, un'angoliera come la sua, che forse era stata venduta. Federica Fracassi ha letto Sillabari di Goffredo Parise, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.